Luoghi d'arte. Nel nostro tour tra i lazzaretti d'Italia, cioè gli edifici che erano stati costruiti proprio per riparare una parte della popolazione contagiata da malattie oppure per le quarantene, c'è il lazzaretto di Milano, che è rimasto celebre per appunto i passaggi e i racconti che ne fece Manzoni, peraltro racconti tragici, nei Promessi Sposi. Il lazzaretto di Milano purtroppo non c'è più, è rimasta solo una piccola porzione, non è sopravvissuto alla speculazione edilizia della fine dell'Ottocento, che ha trasformato quel quartiere in un quartiere residenziale. Era un edificio gigantesco, aveva quasi 400 metri di lato, era un quadrilatero ed era appunto una specie di fortilizio di mattoni, chiuso all'esterno ovviamente, e all'interno era caratterizzato da tante celle una accanto all'altra, con tanto di camino, ognuna ospitava un camino, e c'era un loggiato e poi c'era questo grande quadrilatero aperto. Al centro di questo quadrilatero era stata costruita una chiesa che ancora oggi si conserva, la chiesa di San Carlino si chiama, ed è una chiesa importante perché è stata realizzata niente meno che da un allievo di Michelangelo, Pellegrino Pellegrini, detto il Tibaldi. Quindi è curioso alla nostra ottica immaginare che anche per i malati, anche per la parte della società più sofferente, si riservassero edifici di una grandissima qualità, come se oggi gli ospedali fossero tutti affidati alle archistar e agli architetti più importanti. L'ospedale era, il lazzaretto era perfettamente funzionante, naturalmente ebbe dei momenti di tragica situazione quando si riempì nelle pestilenze manzoniane, e lì naturalmente le cose non andarono per il meglio. Poi piano piano venne riutilizzato come case per i poveri e poi alla fine le magnifiche sorti e progressive della città dell'Ottocento lo smantellarono. Peccato, perché oggi sarebbe un edificio bellissimo, tra l'altro circondato da negozi, me lo immagino, di grande qualità architettonica, perché venne costruito dagli Sforza, da un architetto che si chiamava Lazzaro Palazzi, un architetto militare. Quindi anche in questo caso un edificio molto pregevole della bella architettura lombarda del 400.